rai del sol si volge, non sostiene il gran nome, in colpa il sole e dell'error dei sensi che risolvi.